Ok, adesso sono in FM, vedi a vedere? Qua sono 9.30. Non è abbia tutto questo granché. Però voglio dire, almeno si fanno scala. Tu pensa che adesso sto uscendo con 50, eh? Prova, capì. Siete tutti e due fondo scala, eh? Io sto andando in aria con 12 watt. 12 watt sto andando in aria. Posso però qua devo fare una cosa. Devo portare il Mac Gain come la M e non sto usando Franco, sono MC60 diretto alla radio e senza attrezzature varie. 12 watt, adesso vediamo, aumento, do un'aumentata, vedi, guarda se cambia il segnale, adesso sto dando 50 watt, adesso sto dando i suoi 100 watt, eccoli qua, 100 watt, ha cambiato ti? Hai fatto da 9.20 a 9.30. 9.30, ma tieni presente che questa qua è più selettiva dell'altra, sono selezionato fondo scala. Hai lo stesso segnale di Franco. Capo, da me era 9.50 ed è andata a fondo scala. Allora, però voi state usando 50 watt, così è. Si vede la differenza, però abbasso perché non mi interessa, lo porto a 50, tranquillo. Anzi, diciamo che lo porto anche a 25, così, e sono a posto. Allora, io sono a 50 watt, Fra, guarda, aspetta un attimino. Allora, 50 watt, guarda se cambia qualche cosa, Fra. Guarda un pochino se è cambiato. Capo, sei a 9.50. E va bene, così invece, guarda un po'. 9.40. 10 dB ho aumentato, 50 watt in più gli ho dato. Ascoltati, scusa un attimino Franco, Tino portalo a 50 watt, che faccio una cosa con l'RF, perché siete tutti e due a fondo scala, portalo a 50 watt. Eccolo qua, 50 perfetti perfetti. Franco, fammi un patù fra 50 watt lo stesso. Sì, io in FM è tarato a 50 watt, veramente nella radio è tarata così, anche negli altri posti. Allora, Tino, vi ho attenuato tutti e due, allora Tino con 50 watt a me mi arriva, segnale 9, tu mi arrivi 9 più 15, adesso ti fammi il passaggio da 50 a 100 in diretta. Allora, aspetta, Allora, da 50 a 100, aspetta che abbasso, eccola qua, 50 watt, 100 watt, ora sono 100 watt. Fa un passaggio, Fra. Capo, guarda, da me è aumentato un pochettino, è aumentato, sei quasi 9.60. Allora, Tino, tu con 100 watt sei 9.20, io parlo sempre di te, tu sei con la radio che sto usando, attenuatore inserito, RF gain ad attenuare a segnale 9, con 50 watt i tuoi. Allora, Franco con 50 watt, adesso ha fatto un passaggio 9.40 e tu con 100 watt sei 9 più 20. Caspita, va bene, c'è da calcolare la distanza. Franco è attaccato a me. Appunto, adesso sono nuovamente con 50 watt. Capo, non è paragone questo, sarebbe stato bello un altro vicino a lui. Ascolta Fra, scusami un attimino, perché adesso mi hai fatto un passaggio a 9.15? Usando i giochi come te cammino, sei ubriaco lo smitter duio. No, non è ubriaco il mio smitter. Adesso sei di nuovo 9.40. Io non sto facendo niente. Ho sempre la radio tarata così, a 50 watt, le MC60 e basta. Sempre 9.40. Vai ti. Allora, io vi ho attenuato, ho tre possibilità di attenuazione e vi ho portato a entrambi a 9 e avete dei tre segnali. Ma io ti faccio vedere, ti faccio la foto, ti faccio la foto, guarda con quanti watt sto uscendo, dove sei, guarda con quanti watt sto uscendo io, eccolo qua, in diretta, guarda, 25 watt, 25 watt, mi la mando anche a Franco. Franco sta scendendo con 50. Vai Fra. Ma non vuol dire, perché lui a Sassari è più aperto di me, è più aperto. Capito hai, Ottino? No, no. Allora, diciamo la verità, che Gavino era 9, tu sei 9,10. Tu sei 9,10, adesso ho guardato meglio. Con i picchi positivi tu mi accendi il primo LED. Mentre invece Gavino è stabile, con tutto attenuato sto parlando, Franco. E io. Come faccio ad essere aperto per Sassari? Già, t'arrivano segnali più forti dei miei, di me, che arrivano da Sassari. Ma dove? Ma quando, Fra? Ma quando? Non... Allora, è impossibile che a me mi arrivino segnali più forti di te da Sassari. È impossibile, Franco. Cioè, ma tu hai visto cosa c'ho io davanti, che devo passare... A me mi può arrivare, lo sai, segnale forte da dove? Dalla zona di Usilo, magari a me Claudio Sparviero mi arriva forte, perché c'ho proprio il varco io aperto, l'hai visto dal tetto mio e si vede Usilo, io c'ho il varco aperto, in quelle zone lì io sono tutto aperto, però Fra, io per Sassari sono proprio negato, Vedi, io Claudio mi arriva basso a me qua. Oh, io oggi stavo ascoltando a Claudio in 40 metri e praticamente il segnale mi faceva un rimbalzo da 9, anzi da 7 a 8, 9, 10, poi di nuovo 7. Comunque, Gavì, a te ti arrivano segnali forti da Sassari e questo non lo puoi negare. Segnali forti da Sassari, da chi ti? Già, ti arrivano, dopo che superano la rotatoria, ti arrivano. Dopo che superano la rotatoria, ma perché c'è la discesa? Le buone a guinta, Ivi. Adesso, vedi che ho fatto la rotatoria, porca miseria, ma non sentino allora. Ah, caspita, è già occhio, tu sei in folle adesso, tu stai sfolleggiando, come ti dice la Maddalena, tu ti sfolleggi, tu, ma cosa sei, sfolleggendi alla Maddalena, dizimi. Ma stai sbiellando, ecco qua, vedi, adesso diciamo che sono in discesa. Sei in discesa. Allora, di segnale eri 9, adesso sei 9,60, attenuato, io non ho toccato attenuature, 9,60 Fra, adesso. Non lo stavo guardando, vai Tino. Ma tu non ti puoi accorgere di queste piccolette, Franco? Io me ne so che ho visto io, sei anche qua 9,60. Cos'è che hai detto, cos'è? Con quella che stavi usando c'è differenza, vero? C'è, va bene, sembri, diciamo, più occhetta questa qua, è più occhetta, ho capito, però insomma, questa deve spingere, questa deve aggranchiare, deve graffiare. Graffiare sì, però l'altra era più perfetta e graffiava anche l'altra, Fra, cosa ne pensi? No, già, va bene, capita, che mi arriva a fondo scala, mi arriva bene proprio, andava bene. Ma di segnale, ma di radio era meglio l'altra. Vabbè, ma il segnale lo possiamo migliorare, cioè la radio la possiamo anche migliorare, diciamo che se vuoi un po' di tune ti rimetto. Aspetta, perché era meglio l'altra? Perché era più completa come missione. A me mi piace, che c'è più mi barbi la voce sulla verticale. Ma cosa, fra? Capita la voce sulla verticale. Aiù, ma tu c'hai autoparlante rotto, secondo me. Va bene, è rotto, a me piace così. Ecco, allora, sui gusti e i colori non si discute. Se ti piace squillante così è un conto, però secondo a me così come sta, com'è adesso, a me non piace e non ha nessun tipo di cosa. Sì, la radio è forte, per carità, come se parliamo di pressione di radio, di cosa, è bella, cioè bella perché è forte, però l'altra era non vedo la punire a paragone. Va bene, ha ragione Gavino, questa magari è un po' più prepotente, magari un po' più filtrante, più penetrante anzi. L'altra era più assediata, più normale, più completa. Vabbè, ma nel caso, se vuoi un po' di tuni te li metto, non è che... Per sentire altre cose su una radio, non lo so. Fra, scusa, ci siamo sovramodulati, riprendi Gavino. No, hai detto se devi sentire altre cose? No, ho detto che per me va bene, è bella la radio di Tino, sia la una e l'altra. Poi se a te ti piace sentire altro tipo di cose nella radio, per dire toni alti o toni bassi, queste cose qua, o non lo so, però per me va bene. Poi, se vogliamo giocare, cambia. È arrivato la rotina, ga. È arrivato la rotina. È proprio così, Questa è una cosa da gioco, da dare fastidio più che altro. Allora, diciamo la verità, vediamo un attimino se posso migliorare, aspetta, Allora. Vediamo se aumenta, aspetta, che sto dando gasolio, aspetta. Guarda se cambia Galvì, guarda un attimino. Oppala, ancora un po', eccolo qua. Abbassa un po' i toni di quel microfono. No, vabbè, ho aumentato un pochino di watt, Ora. Eccolo qua, ha aumentato qualcosa lì? Abbassa un pochino i toni della radio, del microfono. Ancora, guarda un po', sta scaricando la batteria sicuramente. Abbassiamo ancora. Visto con i toni un po' più bassi, guarda quanto è più corposa. Sì, non c'è più quello squillante che ci aveva prima. E adesso è più corposa la radio e va più bene. Buonasera. Devo dire, quella là è la corposità, questa cosa della un po' di voce, la radio la fa spingere di più, fai un passaggio ti. Sì, faccio un passaggio, guardami un attimino, non so se tu hai attenuato ancora, perché ho alzato un attimino e sta dando il massimo delle sue capacità, T960 sei sempre qua, attenuato, non ve ne dicioli. Allora passiamo un po' l'entrata, aspetta, lo portiamo un pochino più basso, là, così si va bene anche così. Da. Pensavo che quei 100 watt in più, insomma, davano la differenza. No, non ne davano differenza, no. Fondo scala sì, fondo scala rimarrai. Vai fra. Ho sentito uno sbadiglio. Buonasera. Milovi, ciao tu. Allora, mamma mia, adesso che tu rado sano, io passo tutto quanto mi era andato, so. Gabriele, fammi papità. Io passo tanto mi era andato, un durore, faccio, mamma mia. Avanti. Chi è? Aspetta un tu che stavo innescando. Ma adesso voglio dire io, senza togliere niente, ma qua c'è un QSO, Antu. Entrare con uno sbadiglio non mi sembra una cosa giusta e corretta, Non l'ho fatto mica apposta. No? Oh, ma voglio dire, cioè qua siamo tutti allegri e contenti e pimpanti, tu. Oh, Mi fai capire che ti stiamo annoiando. No, ero messo dormito, ero. Va bene ragazzi, dai, i giochi sono finiti, metto in riposo la vedova che mi metto l'altro, dai. Sì. Io riprendo subito, io riprendo subito, esco un attimino fuori a fare una cosa. Ciao Antonio, buonasera, ben sentito. Franco, riprendi. Entro subito. Ehi, ciao Antonio, buonasera, ben sentito. Avanti a te. Buonasera Fra, ben sentito. Mi ero mezzo addormentato, ero. Mi è giunto, non l'ho fatto apposta. Non fa niente, non ti preoccupare. Poi, solo che, vedi, a Tino poi lo fai sbadigliare anche a lui, vero Tino? No, ho pensato, magari il nostro coso è annoia e quindi gli fanno venire il sonno, non lo so. Vabbè, no, non è successo niente, dai tu, dai, fregatene. Il capo, ma già appena inteso che prima era tutto wah. Perché era fatta in banda laterale, siccome non ne ho voglia di entrare dentro, ho detto vabbè aspetterò e come si dice? Aspetterò che passeranno in FM, ho detto. Ah, perché tu hai le portate lì, non ce l'hai le bande laterali, vero? No, non ce l'ha la banda laterale. Ho capito, va bene, va bene. Andare, no, va bene, stavo spiegando a. Spiegando per modo di dire, giusto titolo informativo, che la banda laterale si spinge, però l'FM qualche margine in più ce l'ha, magari in distanza è meglio la banda, non lo so. Questo non te lo so dire perché non l'ho mai provato in distanza chilometrica avanzata. Ma per me è quasi uguale. Non lo so. Vabbè, comunque, ci accontentiamo di questo. Quindi, Fra, com'era l'altra modulazione? Un po' più, come si dice, che adesso magari più fine, però era più amplificata? Sì, era fine, molto amplificata era. Poi quando gli hai messo l'eco, era proprio l'arrotino, Era quella per giocare. Capo, no, ma va bene, capito, ci mancherebbe altro. La banda laterale deve essere ricorrente, spende, centrando. Invece qua è, come si dice, qua è giusta, là devi essere col VFO, cioè col, non col VFO, col caliper, col coso, cioè forse con quale radio, adesso non me ne ammetto, con radio professionale, forse col VFO, cioè non mi ammetto come intera, ne manco. Vabbè dai, ma anche con la radio, sei a posto la radio che è ben sintonizzata, diciamo che allineata, da, e ce la entri lo stesso senza toccare niente. Sì. Ma secondo me l'FM forse la via di mezzo migliore che ci sia. La M sì, va bene, ma l'FM è un'altra storia. No, io non sono d'accordo. A me c'è chi piace la modulazione normale, a me piace la modulazione prepotente, un po' gracchiante, un po' non da camionaro, però amplificata e forte. Quindi gradisco più la M che l'FM, però non so, per dare piacere di ascolto anche ad altre persone utilizziamo quello che si vuole, dai, non c'è problema per me. È un mio modo di ascoltare la radio, ecco, perché sinceramente anche Lima Serra Bravo la modulazione non è così eccellente, o perlomeno quello che sento io on air non è così chiaro e dolce, a differenza giustamente dell'FM. Vai Franco. Sì, Tino, però c'è anche da dire una cosa, che adesso siamo in quattro, e sembra una telefonata, perché squelci e non senti né rumori né niente, ed è perfetta la modulazione. Per squelciare in AM, quindi voi di squelcio devi serrarlo un bel, non è come qua, capito? E secondo chi c'è, come tipo da lontano, non gli ascolti quelli se metti lo squelcio. Sì, quello non c'è dubbio, quello è normalissimo, è normale che quelli bassi, se metti lo squelch per eliminarti i rumori di OKRM, vai a eliminare quelli bassi, non li senti, però nell'FM potrebbe capitare uguale, solo che non te ne accorgi perché i segnali sono raddoppiati se non triplicati. Ma io non è che ci trovi molta differenza. Sì, la M puoi spingere un po' di più, però qua basta diversamente, basta, secondo il mio parere. Basta molto meno che rende tantissimo di più, capito? Poi non è detto, se vuoi spingere, spingi anche qua, è solo che va molto di più, va, capito? La radio se la spingi, secondo me non c'è tantissima differenza, però qua è l'ampiezza che va di più e sicuramente i disturbi sono molto meno anche. Vabbè, poi diciamo che questo è locale, non è così importante, sei vicino, quindi come ha detto Franco, abbassi, anzi chiudi un attimino lo squelce per eliminarti quel QRM di sottofondo. E va bene. A me sinceramente sta piacendo molto l'FM. E a me con le patate. Vai, Gavi. E anche con i polpi, con i carciofi è buono. Ed è buona la carciofa. Mi ho fatto una mangiata di pollo e un agrodolce, caro, lo devo ancora digerire. Tortellini al pesto e basta. Gorgonzola, roba del genere. Oh, se volete passare in AM, passiamo in AM, io problemi non ne ho, Ma in AM devo attaccare il processore io, ok, dai. A me va bene qua. Va bene, lasciate dormire la gente come dorme. Ma qua ancora non sta dormendo nessuno. E viene gente dormendo. Va bene, dai, per oggi faccio la brava. Oh, e tu, la carciofa è buona, grande mangiata, la base la punta. No, chissà di scemideggia. No. Cavolo, mi piacciono molto i carciofi. Mangiati un equipino, allora avrà. No, a parte gli scherzi, sai come piace a me? Allora, il carciofo a me piace crudo, con l'olio d'oliva e il sale. Boom, basta. Cotto con le patate, così, però con fritto con le uova mi piace lo stesso. Guarda, tutto è buono, basta che viene a bassa. Io per domani, per non sbagliare, mi ho comprato una bella orata e vediamo un po'. Ma ci ragioni prima di mangiartela, sì? No, ma prima ci parlo con l'orata, poi vediamo cosa mi dice. Se ti rispondo male è fottuta. Cazzo giusto. Mi sembra che è fottuta anche se non gli dice niente. Così è fra. Mi pare di sì. Ho messo già in frigo una bottiglia di vino bianco. Eccolo qua. Comunque io vi do una cosa, vi do una dritta. Riso, carciofi e besciamella. No? Riso, carciofi e besciamella. Provatelo. Sì, provalo. Ecco, fra, mi è crollato un mito. L'ho già mangiato, ma non mi è piaciuta. Mi è crollato un mito, porca miseria. Il riso non ne vado tanto matto io. Da parte insalata il riso e buco. È quello perché metti Wuster. No, ho sbagliato, io Wuster senza offesa per nessuno, ma li do solo al mio cane. Bravo, anche io gli prendo i pacchi da 12, glieli metto in mezzo alla trippa e alla pasta. No, no, io li cucino alla pasta, li metto a carne cimenta, le wurstel e tiracchiaio, un pochino di olio d'oliva, li vizio, purtroppo olio d'oliva costa, però lo so, allora fanno bene, un po' di parmigiano e ciccia. Oddì, molte volte vedo Facebook o cosa così, no, che stanno arrostendo e prendono di quei fuster, di quelli grossi, belli, aggiovati, che hanno mai al buco di chissà cosa, non è caldo medio, la barzetta o la vecchia. Usa tizzone. Anche? No, io, allora, addirittura quando ero ragazzo li mangiavo, quelli piccolini con le cipolle. Però poi sono andato a lasciarli e da grande poi ho visto anche dei video che non mi sono interessati e sinceramente li sto mollando. Capo, vabbè, video ne fanno di tutti i colori. No, io qualcuno già me lo mangio di quelli piccolini, ma di quei grossi no, manco, ma sono. No, fra, adesso non, perché io li ho sempre mangiati e tuttora se me li fanno me li mangio, per carità, non li schifo, con questo devo essere sincero, perché sono buoni. È che purtroppo ormai ci danno tanta mondezza da mangiare, Franco. Guarda, se tu guardi quello che noi stiamo mangiando te ne passerà la voglia, ma io non sono schizzinoso, perché qualsiasi cosa tu mi dai a mangiare io l'assaggio e poi ti dico no mi piace, sì mi piace, anche le schifezze sono fatto così, a me piace assaggiare tutto e poi dire la mia, però sinceramente se posso evitarlo lo evito. Sì, quello sì, è ovvio. E come fai a dire non mi piace quando non l'assaggi? No, prima lo devi assaggiare, poi mi puoi dire non mi piace o mi piace. Sì, io sono fatto così, no, perché poi lo vedo anche dai miei figli, no? Molte volte, cosa stai facendo questo? Ah, che schifo, come fai a dire che è schifo se non lo assaggi, se non sai che sapore ha? Non solo la presenza, per dire... Ti faccio un esempio stupido che magari a voi piacerà tantissimo, il cavolo, a me il cavolo solo l'odore sinceramente non mi piace cucinando, poi magari lo assaggio e sarà anche buono, cioè l'ho assaggiato, ma non ne vado matto, c'è altra cosa più buona. Questa è una delle cose che io ne faccio a meno. La cosa primaria che faccio a meno, che a voi magari vi farà girare la testa, è la polenta con la salsiccia. Io non ne mangio. Non ne mangio perché da piccolino sono stato costretto a mangiare una polenta, quella grossa addirittura, che non aveva sapore di niente perché l'ho assaggiata e praticamente non mi piaceva. Ho detto no, non ne voglio, finché me l'hanno fatta mangiare a forza, perché allora ero piccolo e non sapevano quando crescevo che ero in queste condizioni, nel senso che ero più grosso di loro, comunque. Niente, l'ho odiata talmente tanto che quando la fanno lascia perdere. No, la polenta io già la mangio, ma non ci vado matto, però ogni tanto, una volta all'anno si buffo lo mangia. Io no. Allora, possono passare anche 10 anni, 20 anni, non me ne frega niente. Vai Gavi. No, a me la polenta, sinceramente, quando... se la possono anche tenere i milanesi, se la possono fare con... No, io mangio tutto. No, ma cosa avevi? Il processore inserito? No. Rovinata. E... un bel. C'era Ruinelli. Cosa? Eri troppo amplificato, stavi strappando e era quasi incomprensibile la modulazione. Adesso si è messo a toccare. Ancora strappando sta? No, adesso no. Catta, così tanto è aumentato questa cosa? Sì, poco fa eri, anche adesso, eri perfetto. Poi hai voluto fare lo sborone. Non lo so cosa... Non lo so cosa è successo. Aspetta, riprendi. Sì, ancora, Sì, è vero, hai ragione, Franco. Sì, ancora, o ti stai avvicinando troppo al microfono? Boh, guarda a vedere adesso, è cambiata. Va bene, fra, da te, guarda a vedere un pochino. Sì, adesso ha migliorato. Non lo so per cosa... Perché ho attaccato tutto quell'ambaradam e nel frattempo voi vi stavate facendo i discorsi di polenta. Tu dici, ma niente, no? Ha peggiorato. Quando sei entrato sì, quando sei entrato sì, era meglio prima di fare tutto l'ambaradam. Non lo so. Ancora a te? No, adesso no. Bambino, dai. Vai Antonio, vai. A te ti piace la polenta, a te ti piace la faina con le salsicce, vero? No, a me piace pure mangiare la polenta, è come. La posso... Col sugo la faccio anche. Che tempo che è buona. È buona. Cavolo. È buona, solo che cose a noi, io parlo di me, a me insomma fanno male, che quando ci dette le mangi. Vabbè, no, io mangio tutto, non ho problemi. Gabriele, fai del bravo. Giugendi, ma è pesante. Boh, vediamo, capi, prova a vedere. Guarda un pochino, adesso provo, dai DX, guarda a vedere se sta strappando, se va bene così, guarda un pochino, perché può darsi che ci sia qualcosa da toccare, guarda a vedere, aspetta. Avevo il processore, avevo il microfono a 50, lo dovevo mettere a 500, guarda a vedere, ha migliorato. Ok, guarda un po', devo abbassare o devo alzare? Dimmelo un pochino. Guarda un pochino a vedere, ok, prova radio, 1, 2, Adesso non stai strappando, però ti ripeto, la modulazione era meglio prima. Non so cosa hai collegato, non so cosa hai fatto, era molto più chiara prima. E da qui non si esce. Ma anche meglio dall'altra volta. No, io sto facendo una comparazione, con l'altra volta non me la ricordo, però sto facendo una comparazione da quella di adesso a quella di poc'anzi. Dimmi tu, Franco, se mi sbaglio. No, si è allontanato, Franco. Poco fa era migliore. Adesso sì, è sempre comprensibile, è sempre chiaro tutto quello che vuoi, però hai un non so che al momento che sembra che si sta comprimendo la modulazione. Aspetta, rimetto il microfono a modalità normale, aspetta. Scappa. Sto facendo silenzio radio perché voglio sentire Garfino, Io poi fai, non c'è problema. Così è come poco fa quando sono entrato. Va bene? Fammi un passaggio un po' più lungo perché al momento mi sembra perfetta, però, sai, non ti voglio dare cattive sorprese. Le cattive soluzioni sono quei sistemi che qualcuno crea nei confronti dei pareri altrui. Di tutto ciò che ho detto non lo so, però ho ragione. Ascolta, allontanati appena dal microfono. Ma se lo così, porca miseria, ma questa radio mi sta dando delusioni. No, lascia così. Forse ero... Dai, stavo parlando più a voce bassa poco fa, come adesso. Adesso va bene, adesso non fa una virgola. Fonni. Avete parlato in due, prova? Secchi si fonni. Anto, tu? No, negativo. Allora era Franco. Eia, già va bene adesso. E se ce l'ho detto io, ce l'ho detto. Ce l'ho detto. Fra, tu sei una pirata della birretta. No. Mi hanno chiamato giù, ho chiamato. Va bene, se la volevo ce l'ho qua il frigorifero. Beh. Hai compreso, ti che si è fatto la postazione di lusso? Sì, ma io guarda, quello che invidio a Franco, credimi, è proprio quello lì. La sua postazione a me mi piace, perché è, a prescindere vabbè dalle scale, che io avrei fatto una bottola, nel senso che avrei... però così ti stai chiudendo, ti stai isolando, però sai, al momento quando ci sono dei rumori di sottofondo non è male chiuderla quella scala lì, quindi una bottola in maniera tale che posso chiudere diciamo riservarmi un pochino, però del resto di quello che ha a me piace tutto, perché ha la postazione della radio dove lui si siede tranquillo, poi esce fuori, si può prendere un po' l'aria, vabbè adesso perché c'è freddo fra, però in estate già ti fa comodo, eh. Capi, in estate c'ho sempre la porta aperta, c'ho, che si sta troppo bene. No, già è vero, perché sono, diciamo, da solo. No, diciamo, la bottola non l'ho fatta, perché se no poi, siccome sale lì per stendere i panni, queste cose qua, ecco, la bottola viene male. No, io parlavo una bottola accessibile, giustamente, senza sgravare le cose degli altri, nel senso che oggi voglio chiudermi la bottola perché magari, che ne so, tua moglie ha gente giù che stanno chiacchierando, facendo, vale varie, quindi te la abbassi per addolcirti magari anche i suoni che salgono lassù, da giù, capito? Solo quello. Sì, quello sì. Ehi, vabbè, purtroppo è così, è piccola, già lo sai, è piccola e ci accontentiamo di quello che ci abbiamo. Anzi, non pensavo che mi uscisse un angolino come questo, là. Certo, piccola, va bene, perché tu entri, sì, nella tua postazione, hai un banco grande da lavoro, da tutto, e poi, se non sbaglio, che non credo di sbagliarmi, però seduto alla tua sinistra hai la porta con il terrazzino. Sì, e adesso ce l'ho dietro alle mie spalle, perché la scrivania l'ho portata a destra, al muro di destra. Ah, te l'hai cambiata, perché prima ce l'avevi, salendo le scale ce l'avevi praticamente, la porta ce l'avevi sulla sinistra e la postazione ce l'avevi frontale. Adesso invece te l'hai messa sulla destra. Sì, l'ho messa sulla destra perché viene meglio, c'è più posto e tutto. E l'altra piccolina dove mi faccio le saldature, le cose, ce l'ho qua alla sinistra. Io insomma mi ricordavo così perché sono salito, mi sembra, una volta tanti anni fa. Capo, sì, e allora c'avevo la scrivania frontale dove c'ho le mensole. No, io sono sempre in campeggio, mi cammino già, l'ha visto anche ultimamente la cosa, sempre qua buttato in salone, un po', insomma, un po' così, con la speranza che se mi viene voglia e denaro, perché ci vogliono anche dei quattrini per poter fare delle cose che ho in mente, non è che aumento la mia stazione, però sono in un angolo esterno al salone, perché io ho una seconda entrata, no, diciamo, dalla casa, però non l'ho mai utilizzato, quindi stavo pensando di mettermi la stazione sotto la seconda entrata, dove dovrò chiudere con dal gasbetto nel ballevaria e fare una sorta di accumulo di radio lì, dai, ciao. Va bene, è importante è stare bene, poi del resto io qua ci sto da pappa, ci sto. E quando me ne servo qua mi dimentico anche altre cose, ma c'è la radio, il computer, c'ho la televisione, cioè non mi manca nulla. E in finale mi ho portato su, mi hanno regalato un frigorifero di quelli che usano nei camper piccolini. E ce l'ho qua, ce l'ho, ci sta la birra, ci sta l'acqua e via. Quello è bello, quello è bello. No, io avevo già due stazioni, dove avevo una stazione di circa 12 metri quadri di camera, poi è nato il mio primogenito, quindi quella lì è stata data a lui, l'altra era circa lo stesso 10-11 metri, adesso non mi ricordo, comunque appena appena più piccola, è nato il secondo e mi hanno sfrattato da lì. E ho detto, beh, adesso mi metto in mezzo alle palle e mi sono messo in salone. Avanti, capi. Sì, no. Vabbè, Franco mi ha detto che il coppia basso. Sto uscendo con l'Icom e una Delta Loop filare con il coppia. Troppo amplificato, sì. Santiago 9,5. Sì, troppo amplificato. Troppo amplificato. Sono con l'MC 80, eh? Adesso mi sono allontanato. Abbassa amplificazione. L'MC 80 è peggio dell'MC 60, eh? Guarda a vedere adesso, abbassato il mic gain della radio. Ancora abbassa. E vai, catta. Ancora, guarda un pochino. Adesso è quasi accettabile, però puoi ancora abbassare. Cioè alle 9 meno un quarto ce l'ho, alla seconda attacca ce l'ho questo microfono. Diciamo che adesso va quasi bene, ma un tizio ancora l'avrei abbattuto. Abbattiamo, guarda a vedere, alla prima tacchetta. Per come vuoi la radio tu, così va bene. Ok, mi copi quanto di segnale? 9? 9,5. Si vede con l'antenna, sto uscendo con una Delta Loop, con un'antenna a filare, sì. Quella è, giusto per fartelo capire, quella triangolo. 9,20 e la radio 5. Sì, ho capito, quella è una direttiva però, eh. Ce l'ho puntata verso la tua finestra. Quella è una direttiva. Sì. Antonio, mi copi tu? Anto! Brumidose! Scusate, ma mi sono mezzo addormentato, dai. Buonanotte a tutti, dai, ci sentiamo domani, perché sono stanchissimo. Antonio, mi copi tu? Sì che ti copio. Lo vedi, Fra. E ce l'ho puntata tutta un'altra parte. Sì. A me arrivi 9,20 e radio 5. Aspettate, Ciao Antonio, buonanotte, tante cose belle, saluta il pupo, la consorte. Che capo, perché oggi stavo lavorando tutto il giorno e sono gribato, poi c'è un dolore, mi è giunto un dolore a dietro, cioè, mamma mia, che un dolore alla china, non mi è mai successo, va a torra, va a Napoli, forse in passato succedeva qualche volta, va a torra dolore, pazienza, dai, buonanotte. Ok, dai, ciao Antonio, buonanotte e buona giornata per domani. Ciao, avanti, capì? Sì, ciao Antonio, buonanotte e buona pigliati, prenditi qualcosa per la schiena in modo che non vai a stressarla. Ciao, buonanotte a te, cuore familiare, vai. Eia, ciao Anto, prenditi il Viagra, prenditi la pastiglia, Anto. Ma tu, allora, tu stai facendo l'errore più grande della tua vita, lo so che i figli sono un pezzo di cuore, ma abituarli al letto, al lettone grande è un controsenso, vabbè, e qua chiudiamo l'argomento. No, lo teniamo un po', poi ti ricordo un letto sogno che non ha di cadere a un gabbo con Edo. Ok, ciao, buonanotte. ciao. Tu pensa che tutt'oggi che mio figlio ha 11 anni lo voglio con me, ti puoi immaginare. Va bene, ciao. Ok, dai. L'importante è che non sia blu, vero Tino? Quella bisogna stare attenti, eh. E dopo ti alzi con lo sbatto da tutte le parti. E allora? Se c'è poco spazio è un casino. Tocca a prendere tu il cavalletto laterale. Gavi, ho visto un video che questo cane, cosa cacchio era? Una specie di pincher, di quelli bianchi, brutti, che io non li sopporto, perché si sono mangiato una pastiglia, sedere in un angolo, col cavalletto. col cavalletto abbassato. E allora, il padrone non lo prendeva in giro. Oh, comunque voi arrivate tutti e due al fondoscala, eh? Attenuati. Se ci ho atterrato dico a marraggine. Devo dire che è una buona ricezione. Non posso dire della trasmissione, però ho una buona ricezione. Ma io vi faccio, guarda, senza se e senza ma. Infatti fammi un passaggio prima tu e poi me lo fa Franco. E vi faccio vedere una cosa. Guarda, allora, fatemi un passaggio. Sì, vabbè, io sto andando con 50 watt, ma ci credo, per carità. La ricezione magari quella lì la prende bene, la trasmissione che non è ottimale. Vai Fra, ottimale nel senso che mi permetto di dire che non hai segnali così alti, però è sempre 9,5, 9,10, cioè di tutto rispetto, ma non potrebbe dare di più. Vai Franco. Capo. Vabbè, sto uscendo con un altro tipo di antenna, è ovvio che è così, è naturale. Però diciamo che magari lui come ricezione ce l'ha molto buona e allora gli arriviamo tutti bene. Oppure se deve guardare quello smitre che non si è sbilanciato. E dove si è andato Tino? Non stai uscendo in radio? Io. E allora io? Se mi hai risposto vuol dire che ti avevi sentito. Sì, adesso si è aumentata, poco fa eri bassa, bassa, bassa. Ma cosa vuoi che ti dica? Aspetta un attimino. Ho cambiato solo antenna, ho detto fai un passaggio Gavi. No, sono tornato alla Graziuli. Ti volevo controllare con antenna 1, antenna 2. Sono tornato alla Graziuli. Tino, diciamo che voi mi stavate ricevendo in verticale, io stavo trasmettendo in orizzontale. Bene, guarda se ha cambiato ora. Fai un passaggio. È bassa in radio? No. No? Allora lascio questo microfono. Aspetta, ho provato a toccare così, vediamo se ha cambiato qualche cosa. Adesso c'è qualche filo che fa contatto. Ha dato un picco positivo a 9,5. Aspetta, poco fa quando tu stavi chiamando a Gavino eri basso, basso, basso del radio. Adesso l'ho riattaccato col microfono. Adesso è basso oppure va bene, com'è? No, adesso va bene. Non so cosa dirti, allora io ma l'ho notato già da qualche giorno che utilizzando questo microfono molte volte mi dà questa cosa qua, che o si abbassa o si carica di onde elettrostatiche, boh. Oppure c'è qualche filo che attaccato al microfono sta facendo qualche maracchella. Ho pensato anche quello, guarda, le sto toccando io, poi ditemi se cambia qualche cosa, perché effettivamente io non me ne accorgo. Adesso le sto toccando e vedo un po' se sta cambiando o meno. Vediamo. No, niente. Eppure li ho maltrattati, proprio li ho maltrattati, perché li ho girati, infatti. Però, hai visto, se non è difettoso il microfono, mi è bastato mettere subito l'altro per poter riprendersi questo. Non lo so perché fa così. Devi tocca la capsula. Tranquillo. Non lo so, adesso anche qua per dirvi. Non lo so. Adesso lo so, sto attaccato, vero? Dagli un colpo di martello. Se mazzetta non è meglio che più forte. Sì, ma anche il martello ho dato bene, già l'aggiusta. Guarda, quello che l'aggiusta più di tutti, un secchio d'acqua. Ma lo devo negare? E allora? Vabbè, adesso mi procuro una bacinella, tutta la notte lo lascio, bene va. Ma attenzione, però per rovinare le cose degli altri le siete fatte apposta a voi. Ci siete progettati bene. ma dai, che già va bene. Questa antenna l'ho fatta tra un traliccio e l'altro, no? In pratica l'ho messa quasi in punta al traliccio grande e va a finire al palo dove c'ho quell'antenna piccola della 27, quella cicotabile della 27, ed è 2,90 m il lato orizzontale e poi 8,40 m per lato i due lati per il triangolo. E sotto è alimentata con un balu. Caspita, però c'ha una ricezione fantastica. Mi sto inviando il video. Come trasmissione sicuramente, non lo so com'è. Bisogna provarla quando c'è propagazione a vedere. Adesso ti faccio una domanda. Allora, io sono poco pratico di queste cose qua, ma ho visto che tu di antenne ne sei molto più di me. Se dovessimo fare un'antenna verticale per, 10, 15, 20 e 40, si può fare con quel balun che abbiamo preso? Certo che si può fare, certo che si può fare, e ti esce un antennone. Ok, no, siccome l'ho vista da un'altra parte, da un radiomattore. La mia seconda domanda è questa. Sì, è vero, è verticale, però come rende meglio di quelle filari che ho io qua a casa o meno? Dipende da come trasmettono ti. Dipende da come trasmette il corrispondente che stai ascoltando. Se tu hai un corrispondente che trasmette in verticale e tu sei verticale, è meglio l'antenna, diciamo, verticale. Se il corrispondente trasmette in orizzontale col dipolo, tu lo sentirai sempre più basso con l'antenna verticale, capito? Perché anche tu devi ricevere in orizzontale. L'altro giorno, l'altro pomeriggio, mi c'era Franco e stavamo parlando, c'eravamo io, Franco e Giulio, dopo pranzo. Io ascoltavo a Giulio meglio con l'antenna, con quella che ho fatto adesso, che con l'antenna verticale, capito? Che con l'antenna verticale. Poi l'ho commutata con il dipolo dei 40-80 e lo ascoltavo ancora meglio. E Giulio è in verticale, l'antenna verticale, però purtroppo ci sono delle situazioni che non lo so. Logicamente devi prendere, a un certo punto devi prendere, devi fare delle prove. Cosa vuoi ti dica? Sì. La J-Pool facciamo. Sì, a un certo punto è così. Ma lasciami la testa in pace. Aspetta che mi è arrivato un messaggio. Ah, tu sì. Cos'è? Ricatta. Vabbè, stai venendo con 25 watt. Quello di poco fa ti ho mandato. Quello, ti ho detto, sto uscendo con 25 watt, lo vedi? Sì, sì. Ti sta mandando il video e c'è scritto 13% più di 12 ore al termine, capito? Quindi abbi pazienza, il piccione è stanco, c'è freddo. Nicola sta col flauto. Sì, quel piccione è sotto lo spoglio, così almeno quando rientra lo trovi con la stalattite sotto il becco. Piffero si dice, non flauto. No, è un flauto questo è un flauto di scuola, il piffero è un'altra cosa. Gabi, smetti a col piffero, mi dice la nonna, smetti a col piffero. Ui, vai bravo. Lo spiffero è quello che delle porte, delle finestre. Piffero Franco, piffero, tu lo sai, tu eppure tu sei più grande, io vorrei sapere cos'è il piffero. E io lo so cos'è, mi ricordo di canna pure. Vabbè, una riproduzione similare, questo è il flauto praticamente che si suona a scuola, no? Sì, già li conosco quelli lì, che si diblastica. Oh yes. Beh ragazzi, io mi ero preparato l'ambaradan, dai. Che così, domani mattina sono sempre pimpante ogni gara, oh yeah. Ma non vorrei che sia sabato, perché ho un appuntamento sabato e poi chissà che la finiamo anche. Perché a lavorare devi andare? No, sabato siamo invitati a casa di un amico e facciamo una rostita a pranzo, dai. Però queste rostite poi vanno a finire sempre le 4, le 5, le 6 di sera, forse anche oltre. Capo, va bene. No, io stavo parlando di domani, vai a lavorare, che te la fa fare? Se non vado io a lavorare, carissimo Franco, la pensione è tua, lo sai che si blocca, sì? Per una persona non si blocca. Vabbè, io sto pagando a uno, adesso bisogna vedere. Sì, è vero. Vabbè. Va bene, dai. Cosa vuoi che ti dica? poi vedrai che qualcuno la pagherà a te. Speriamo bene. Ti devo annunciare che Gavino gli è mancata la luce, quindi non può riprendere a quanto pare. E quindi niente, dai, vi saluto, così mi preparo la roba e domani sarà un altro giorno. Beh, ci sentiamo fra. Ciao, buonanotte a te e al tuo cuore familiare. Non so se è rientrata dal vino, ma non penso che sia rientrata così veloce la luce. Perlomeno a casa ha fatto un tocco e fugge e ha ripreso subito. Nel caso contrario, Gavi, ritieniti salutato anche a te e al tuo cuore familiare e ci sentiamo domani, dai. Vai Franco. Ehi capo, ciao Tino. Basta pagare la luce, la vedi che non manca. Chi non ha pagato, devi dire sì. Va bene, ciao, buonanotte, buon tutto, dai, buona giornata per domani, ci ascoltiamo. Poi vediamo se rientra Gavino. Ciao. Ehi, ciao, buonanotte, ciao.